Voglio fare un milione, fare un milione, riaprire il conto corrente per vivere un mondo migliore. Voglio fare un milione, avere un milione, vivere bene davvero signore di sto meridione. Voglio diventare milionario adesso, sulla playa del sol con l'oro nell'ingresso. Raffannata bombi in una villa all'estero, l'inferno è questo e la mia guida è Cerbero. La schitarrata di Santana a casa adesso, ritirata presto e quando sarò vecchio farmi la plastica in più occasioni. Poi mi guardo allo specchio e sono Baglioni. La mia statua all'entrata di casa come Michael Jackson, la Gioconda in salotto e la tazza del cesso in argento, la piscina di Gigi D'Alessio e nel mare Salvini si è perso. Voglio tutti i soldi della casa de Papel, faccio gli occhi a mandorla e m'accatto pure a te. Voglio fare un milione, fare un milione, riaprire il conto corrente per vivere un mondo migliore. Voglio fare un milione, aprire un milione, vivere bene davvero signore di sto meridione. Voglio fare un milione, fare un milione. Chi vuole essere milionario? A 200 sopra una Diablo, sempre a cena fuori da cracco, sulla spiaggia in completo bianco. Solo gente grossa nell'iPhone, capodanno sul jet privato, la valigia di Ferragamo, in giro con l'autista come Di Maio. Voglio tutto d'oro, pure le cartine, fine settimana in spiaggia alle Maldive, con i soldi prestati come sardine. Prendo lei tipo ratto delle Sabine, in piscina stappo il prosecco, buste d'erba anche sopra il letto. Un milione per stare meglio, o magari peggio. Voglio fare un milione, fare un milione, riaprire il conto corrente per vivere un mondo migliore. Voglio fare un milione, avere un milione, vivere bene davvero signore di sto meridione. Money, money, voglio i soldi man, money, money, tanti soldi che spendo tanto bro recuperare. Voglio un'auto nuova ed un immobile. Money, money, voglio i soldi man, euro, euro, conta sti contanti e non mi basta mai. Voglio di più, voglio fare un milione.